Let's go! Let's go! Da Media World sono arrivati i Club Days. Entra nei club e scopri le offerte dedicate. Ad esempio, fino al 30 settembre, solo per te, TV Hisense 4K 55 pollici, tua a soli 379 euro. Approfitta nei negozi online. Media World, let's go! Let's go! Let's go! Da Media World sono arrivati i Club Days. Entra nei club e scopri le offerte dedicate. Ad esempio, fino al 30 settembre, solo per te, TV Hisense 4K 55 pollici, tua a soli 379 euro. Approfitta nei negozi online. Media World, let's go! Buonasera a tutti e benvenuti dal podcast Non saccio che fa per non dormire mentre guido. È proprio così, caro Luca, mi è venuta in mente questa idea, ok? Non so se la trasformerò in un podcast, ma spero di sì. Ed è praticamente un'idea per salvarci il culo in una situazione particolarmente estrema. La situazione estrema è appunto quando devi fare tanti chilometri in macchina e siccome il tempo stringe, non hai appunto la buona possibilità di... Mazzia, adesso ne parleremo sicuramente. Non hai la possibilità di dormire qualche ora prima del tuo viaggio di ritorno, perché naturalmente hai cose da fare, la gente non ti viene incontro manco se scende il Signore in terra. E quindi abbiamo deciso di fare questo piccolo esperimento per vedere se parlando, facendoci questa chiacchierata così molto alla buona, senza aver nulla di preparato, ci potessimo tenere svegli a vicenda per tutte le ore che effettivamente potremmo sprecare stando magari in silenzio ascoltando musica che abbiamo già ascoltato centinaia di volte prima di quella. E non so, trasformare insomma un momento come questo in un qualcosa di ludico. Con me c'è il mio compagno Luca Marilongo, che con cui siamo andati a fare una rievocazione storica, ma ti lascio la parola, Luca, per spiegare un po' cosa siamo andati a fare e perché soprattutto. Sì, siamo stati in una rievocazione storica a Salerno e adesso ce ne dobbiamo tornare nelle Marche, quindi giusto 2 chilometri da fare in notturna su un furgone. E più 350 sì, più o meno, forse di più. E quindi dopo 2 giorni passati sotto il caldo, strano caldo ormai di ottobre, di fine ottobre, cazzo, è una bellissima battaglia in cui il qui presente Leonardo era il nostro capitano. Ora ce ne torniamo verso casa e abbiamo iniziato questo podcast proprio sotto Cassino, parlando della sua abbazia resa famosa purtroppo durante la Seconda Guerra Mondiale. L'abbazia del 1300, se non sbaglio. Non mi ricordo esattamente. Dovrebbe essere fondata dai Benedettini nel 1300, se la mia memoria non sbaglia. E è passata purtroppo la storia anche nella Seconda Guerra Mondiale per i bombardamenti da parte degli alleati proprio sulla linea di Cassino, che faceva parte della linea gotica, della leggendaria linea gotica. Ma guarda, cioè, questo podcast c'ha tutto, c'ha la funzione sociale, c'ha informazioni storiche che interessano secondo me anche parecchio, perché il senso alla fine di questi viaggi secondo me può anche ritrovarsi in trovare, ok? Trovare cose nuove sempre da vedere, soprattutto in viaggio, cose nuove che possiamo condividere attraverso una chiacchierata che è volta soprattutto per tirare fuori tutto quello che abbiamo dentro e per tenerci, ripeto, mente attiva, cervello attivo, soprattutto dobbiamo essere reattivi, perché se piano piano inizia il silenzio, inizia la monotonia del rumore del motore, cominciamo a stancarci, l'occhietto comincia un attimo a la palpebra a chiudere, e quindi questa cosa non la vogliamo decisamente, vogliamo tenerci attivi, tenerci svegli. Ma allora raccontiamo un po' questo weekend. Siamo partiti di sabato mattina da Montegranaro, esattamente la città della sede della nostra associazione. Abbiamo caricato il mezzo più un'altra macchina di servizio per manco fosse una nave da crociera che viene seguita da navi di supporto, ma più o meno così. Abbiamo caricato ogni o ogni cosa che ci serviva per questo viaggio fantastico, e siamo partiti. Però c'è stato un problema, cioè probabilmente abbiamo scelto la peggiore delle strade che potessimo fare, probabilmente la più lunga, monotona, e praticamente abbiamo fatto un giro di merda. Sì, sì, buon Leonardo, non sappiamo ancora il perché, ma il nostro grandissimo amico Google Maps ci ha consigliato che per arrivare a Salerno dovessimo passare per l'interno di Foggia, per poi ritornare ad Avellino e poi andare a finire finalmente a Salerno, dopo circa 5 ore e mezza di guida ininterrotta del buon Leonardo, che non... giustamente io non invidio, scusami Leonardo per questa mancanza di francesismo, e... più francesi in questo podcast assolutamente. Ma allora, il bello delle rievocazioni storiche è anche questo: testare, provare cose molto molto estreme del proprio corpo, direi, perché mi sono reso conto sempre di più che quando tu ti metti in gioco anche attraverso queste esperienze, che possono essere esperienze di viaggio, possono essere come quelle che facciamo noi per esempio, anche magari dei viaggi corti, ma in cui ci mettiamo a fare qualsiasi tipo di attività per un pubblico che è pronto a vederci, però ho capito che possiamo in qualche modo testare la nostra, il nostro essere estremi in tanti modi diversi. Possiamo provare ad essere estremi per esempio appunto nel numero di ore che reggiamo prendendo la guida, possiamo essere estremi per dirti nel numero di combattimenti che possiamo fare per esempio per intrattenere il pubblico, vedere quanto reggiamo botta prima di crollare stravanzati al suolo per la stanchezza e tutto quanto. Sì. Oppure sopportare la gente che non è scontato, l'estremo che può portarti la sopportazione del prossimo non è per niente qualcosa di scontato, è anzi qualcosa che va provata, va sicuramente migliorata. Assolutamente, buon Leonardo. Infatti secondo me ogni rievocazione fatta sposta sempre di più l'asticella verso nuovi traguardi che noi non credevamo nemmeno possibili. Io continuerò il racconto, nel senso abbiamo costeggiato tutto l'Adriatico, arrivati all'altezza di Foggia, abbiamo preso della sfionca gravitazionale del raccordo di Foggia, poi ce la siamo fatta fino a Salerno parcheggiando, e anche qui per esempio ho testato un altro fattore estremo della mia vita, ossia guidare il furgone in vie che non prevedono l'utilizzo di un furgone. E no, però allora per fortuna devo dire non è andata così male, perché non ho portato via specchietti alle macchine, anche se metà delle macchine se lo meritavano, anche metà delle macchine sicuramente se lo meritavano, ma forse anche l'altra. Però allora, che dire di Salerno? Salerno è una città bellissima e non vuoi fare il Gerry Scotti che dice uno dei borghi più belli d'Italia. No, non le faccio queste cose, ci sono delle città che sono bruttissime nel nostro paese purtroppo, ma Salerno mi è rimasta particolarmente nel cuore perché la sua struttura architettonica, comunque la sua conformazione, che sicuramente ha molto risentito della presenza comunque di popolazioni arabe, quanto vero che hanno plasmato fortemente la cultura del sud Italia, secondo me Salerno si sente molto, tanti portici, tante viuzze molto molto strette, non lo so, tante salite, tante discese, ma tu hai mai notato, Luca, che nel mondo ci sono lo stesso numero di salite e discese? Oh la madonna, mica lo so. Ci hai mai pensato che... Non ci ho mai pensato. Tu non ci hai mai pensato, io lo so che tu non ci hai pensato, ma... Non ci pensavo proprio, guarda. Bellissime, bellissime cose. Sì, condivido pienamente la tua idea su Salerno, nonostante sia... ormai sia una grande città, perché comunque credo che sia sui 70.000-80.000 abitanti, credo che li faccia tranquillamente, per quello che abbiamo visto noi è una città che però mantiene forte la sua identità di borgo, ha una parte storica molto molto bella, per quanto ne abbiamo visto è davvero molto bella, e la vita è davvero molto molto molto agiata e molto molto comoda. Sembra di stare molto lontano rispetto a quello che si crede nell'immaginario comune. Sì, no, confermo. Non sembra per niente, diciamo, intaccata dal tempo. È una città che mantiene i suoi lastricati di pietrone, capito, di San Pietrini, quelli che caratterizzano comunque il manto stradale, tutto, soprattutto della zona centrale in cui ci trovavamo noi. Mare stupendo anche qui. Nota di, purtroppo, no, nota non così buona per quest'anno, che non siamo riusciti a vederlo il mare, purtroppo. Qui? No. C'era soltanto un occhio all'autovelox. Ah, ok. No, puoi parlare tranquillo, tanto qui stiamo facendo una chiacchierata super informale, non c'è niente di... Non dobbiamo nascondere niente, non dobbiamo fare tagli tattici alle cose, anzi, più spontaneo viene, più bello è. È come se una persona si portasse noi in giro per il suo viaggio lungo, no? Che bello! Capito? Tu devi intendere questa idea come se noi fossimo nelle macchine delle persone, no? Come se noi semplicemente portassimo un po' di sveglia. Oh! Te stai addormentando, tizio! Dai, sveglia, porca troia! Dai! Su. Dai, su! Dai, non fa scherzo, dai, c'è rimasto poco, su, dai! Per cortesia, a noi è rimasto di più, quindi tu devi resistere anche per noi. Tornando a noi, allora, le sviolinate su Salerno noi potremmo farne da qui a domani mattina, ma credo che ormai abbiamo detto tutto quello che potevamo dire, anche perché non l'abbiamo girata così tanto, quindi quel poco che abbiamo visto però è sicuramente ci ha molto soddisfatto, soprattutto dal punto di vista storico-architettonico. Io, per dirvi, ho fatto una... probabilmente per quando uscirà questo podcast, se diventerà un podcast, avrete già sentito nel mio programma live mattutino l'intervista che ho fatto al buon Luca Borsa, che è praticamente responsabile dell'associazione che ci ha chiamato a fare presenza, ossia Gens Lagobardorum. Ho fatto una piccola intervista per farmi raccontare da lui che cos'è Gens Langobardorum, che cos'è Principato Salerni, quindi la manifestazione a cui abbiamo partecipato. È stato tutto molto, molto divertente, però che dire, si vede che comunque il buon Luca è contento. Poi tu Luca, che sei omonimo, mi dirai se hai percepito la stessa cosa. Mi è apparso contento, ma forse si è sentito un po' castrato dalla situazione, perché vorrebbe farla crescere ancora di più. Sì, ho notato anch'io questo fattore, perché ho notato che il buon Luca Borsa lo chiameremo Luke Bang. Luke Bang è davvero molto coinvolto in questo progetto, veramente cerca di far nascere un'ottima edizione. Credo che la prossima edizione, non so quando sarà, spero non fra 4 anni, come speriamo prima, certo, che nettamente prima, ma in ogni caso è davvero molto molto bella e davvero molto molto coinvolgente, lato storico ma anche lato, diciamo, puramente rievocativo e militare. È davvero molto spiccato in questo fattore. Ma io alla scorsa edizione non ero ancora in questa compagnia e quindi non conoscevo il fattore, ma ho notato ad esempio degli stand per degli artigiani che erano davvero molto molto interessanti. Ad esempio c'era, non so se hai notato, che c'era lo stand del telaio tavoletta, ad esempio, oppure dell'intarsiatore. Ah sì, c'era veramente di tutto, anche la piccola bottega, non del conciatore ma proprio del lavoratore del cuoio anche. Vabbè, poi i nostri amici di Benevento avevano i loro soliti banchetti, che, per esempio sulla scrittura, sulla calligrafia beneventana, importante. importantissima per il nostro paese. E poi sì, come hai detto tu, comunque c'erano banchetti veramente per ogni tipo di arte e mestiere che potevi effettivamente incontrare ai tempi. E però il bello delle rievocazioni è anche questo, senza diventare troppo retorici, però il fatto che tu hai la possibilità di raccontare la storia a 360 gradi, devi coglierla portando degli esperti nella propria materia a parlare della storia della loro materia, insomma, per rendere il tutto più vivo, perché noi per esempio ci occupiamo per esempio solamente dell'aspetto militare in maniera fissa, perché siamo scuola di scherma prima di tutto, e di conseguenza quello è il nostro campo d'azione. Però questo per dire che le cose possono essere fatte in tanti modi diversi, quindi anche solo concentrandosi su un solo aspetto della storia, però bisogna farlo con un minimo di criterio, ma soprattutto affidandosi a esperti. Nel frattempo qui dossi, buche fantastiche. A proposito del bombardamento di Cassino, qui la situazione non è ancora migliore. Esatto. Oh Luca, parlaci della strada che stiamo facendo. Sì, da Salerno fino a Montegranaro. Sì, la nostra strada prevede la 2 da Salerno verso lo svincolo di Roma, per Roma, e poi all'uscita di Cassino abbiamo iniziato questa strada regionale. Fabio, vogliamo precisare, una strada regionale dimenticata dal nostro signore probabilmente per la condizione stradale, che potete anche notare dall'audio di questo podcast. Sì, io non credo che lo ripulirò proprio per farvi sentire proprio dentro questa cosa, questo abitacolo ormai tristissimo che deve attraversare questo deserto, questo mare, questo lungo fiume di asfalto fino a casa. Lungo fiume d'asfalto, ma anche direi di buche, ma soprattutto di buche, di trappole. Questa strada regionale ci condurrà da Cassino ad Avezzano, e poi da Avezzano saremo intenti a procedere per l'autostrada dall'Aquila, passare sotto il traforo del Gran Sasso e poi tornare a casa, poi metterci sulla A14, sulla nostra autostrada, la strada più pallosa che ci sia nell'universo secondo me. Vabbè, queste opinioni, mere opinioni personali, che prendete con le pizze per cortesia. I pizzi, guardate Futurama è bellissimo. Ma soprattutto, lo sapete come si scrive all'Aquila? Signori, non è scontato. Fidatevi, abbiamo capito che non è scontato che si sappia questa informazione importantissima. Nel frattempo, lo vedo, è lì di fianco, silenzioso, eh? C'è o non c'è? Luca, me lo confermi, c'è o non c'è? C'è o non c'è il signor Andrea? Andrea è entrato? Vuole entrare? C'è. Si vuole aggiungere? C'è. Signori, il nostro amico, il caro amico Andrea, che io mica mi ricordo il tuo cognome, francamente. È l'uomo che è già vecchio, è l'uomo 30 anni. Hai ragione, il nostro amico. È già un filf, esatto. Andrea 30 anni, terzo intruso di questa furgonata ambientata. Esatto, ma soprattutto di questa idea geniale per tenerci svegli. Andrea, vuoi darci un minimo di contributo per questa registrazione che ci serve per tenerci svegli? Non so quando mi sia d'aiuto, visto che è partito da 20 minuti e io già dormivo. Sì, no, ma noi partiamo siamo partiti esattamente mentre tu dormivi, visto che il buon Luca, diciamo, si stava... Nel frattempo mi passano roba, non vi dico che cos'è, ma è un pocket coffee, attenzione, spaccio di pocket coffee qua dentro. Nel caso non mi guarda, è un pocket coffee, esatto, ripieno di ciauscolo magari, diciamolo. Adesso racconto un paio di cose pure a proposito del ciauscolo. Comunque, niente, buon Andrea, anche lui si stava addormentando. Ho visto il buon Luca pure che aveva il cellulare in mano, stava guardando i video di Barba Scura X per cercare un attimo, però anche lui dondolava la testa come se fosse un concerto psichedelic rock. E io allora mi sono detto, no, cioè, dobbiamo fare qualcosa, dobbiamo salvarci la vita. Nel frattempo ingurgito questo pocket coffee, quindi Luca, se vuoi continuare un attimo a blaterare mentre... Sì, quindi stavamo dicendo di questa nostra bellissima autostrada così piatta e così nulla, la nostra cara autostrada che all'andata abbiamo fatto per molta autostrada, Dio, Madonna. Visto che arrivare a Foggia, per chi mai fosse arrivato a Foggia, può far capire la distanza, è un nuovo indicatore di distanza, ma come hai fatto ad arrivare a Foggia? Visto che, ad esempio, altre esperienze mie pregresse di guida prevedevano, che posso dire, il Trentino concettualmente dovrebbe essere molto più lontano, ma sarà la voglia, sarà il resto, ma il Trentino in realtà è molto più vicino. È vicino, esatto, come la Cina che è vicina. O come l'Islanda che è sempre vicino a Padova. Beh, più o meno, esatto, sta lì, E niente, quindi diciamo che semplicemente, intanto potete ascoltare questo concerto di buche in fa maggiore. Allora, siamo felici, molto, devo dire. Sta funzionando, mi sento già un po' più sveglio, mi sento già un po' più ricaricato da questa chiacchiera, devo dire. Ah, non dal pocket coffee? Perché Scoppi sicuramente dà quell'energia che fa piacere, perché tanto cioccolato, tanto zucchero che fornisce energia rapida, ma penso che l'apporto effettivamente di caffeina dentro questa cosa sia assolutamente pari allo zero, ma va bene, ce ne faremo una ragione, l'importante è avere energia, avere forze a disposizione per arrivare a casa, per andare a casa sani e salvi, mi raccomando. Ma parliamo di ciauscoli, perché allora a sto giro vi racconto, c'è questa mia amica, la mia carissima amica di vecchissima data, voi pensate, ci conoscemmo, qui lo dico, no, e un po' me ne vergogno, però il modo in cui ci siamo conosciuti. Voi avete mai giocato al gioco Abbo? No, Leonardo, cos'è il gioco Abbo? Allora, Abbo è... Abbotel? Esatto, tu lo conosci perché tu sei giovane, ok? Luca invece è un po' più vecchio dentro, quindi queste cose se le toglie, giustamente, come esperienza, non le fa. Allora, cos'è Abbotel? Abbotel è un giochetto di merda, con grafica isometrica, quindi vista dall'alto, visto dall'alto ma non troppo. Madonna! In cui tu praticamente... praticamente è come se tu guardassi con un angolo di 45 gradi dall'alto quello che succede a terra. Ok. Secondo me Luca ci ha giocato inconsciamente. Ah, non lo so, forse avrei visto qualcosa, perché no. E praticamente si chiama Abbotel perché tu costruisci il tuo piccolo avatar fatto di pixel, sostanzialmente, cioè molto molto pixeloso. Costruisci il tuo avatar e vai in giro per le stanze di questo hotel con la possibilità di costruire nuove stanze. Nel mentre che tu riesca, per esempio pagando, a ottenere dei crediti che ti servono per comprare mobilia e oggetti vari, nel frattempo qui si un po' affanna il vetro, di conseguenza andiamo a spannarlo subito. Dicevo, e la possibilità appunto di comprare oggetti che puoi con cui arredare la tua stanza, ma non c'è mica niente, è un giochetto abbastanza insulso, devo dire, con cui io passavo ogni tanto qualche svariate giornate solitarie, in un gioco soprattutto in cui si censurava qualsiasi parolaccia con la parola bomba, e tu dicevi alle persone che ti stavano sul cazzo che erano dei figli di bomba, insomma, e la cosa faceva molto ridere, perché poi la gente per bestemmiare iniziava, per esempio, a usare, cioè stato il primo esempio in cui iniziavi a usare caratteri alternativi per poter bestemmiare, capito? Cioè tu scrivi D0 RC0, esatto, D10, capito? Per stare sicuro. Comunque, tornando qui, conosco questa mia amica attraverso Apple, ci scambiamo i contatti di MSN, signore, la Marcord che ritorna. Occhio, no? Occhio malocchio. Ma qui c'è la Pula, attenzione, abbiamo anche la Pula, ma la Pula non ci ferma. la pool ha deciso che non ci doveva fermare. Comunque, continuiamo. C'è avuto un movimento del tipo lo fermo o non lo fermo, lo fermo, lo fermo, ma mi ha riconosciuto, grazie Pula, grande anche lei, anche lei. Segue il podcast, per non dormire durante il servizio, esatto, naturalmente, esatto, cioè, non l'abbiamo fatto ancora uscire ma siamo già famosi, ottimo. Dicevo, conosco questa mia amica, ci scambiamo MSN a Marcord, fantastico, e iniziamo a parlare lì. Poi un giorno, purtroppo, nel senso, ci perdiamo un po' di vista, dopo che sono andato per esempio al suo matrimonio con il suo attuale marito, che mi sono venuti a trovare praticamente qui a Salerno proprio ieri, e mi ha fatto molto piacere rivederli perché sono due personcine proprio simpatiche, e mi hanno chiesto di portare loro 4 ciauscoli. Sacro Graal marchigiano. Il Sacro Graal marchigiano. Abbiamo avuto una discussione sui ciauscoli che io adesso finisco di introdurre, poi vorrei che voi mi deste la vostra opinione al riguardo, perché loro mi dicevano sapendo che il fratello di questo ragazzo comunque fa il cuoco, comunque pensavo magari dovrà fare un regalo, dovrà usarlo in cucina, no me li voglio mangiare io, perché comunque io me li sogno la notte e da queste parti non si trova. Questa cosa stamattina ha generato un minimo di discussione fra di noi sulla possibilità o no di importare i prodotti della nostra terra. E quindi dicevamo, casomai di esportare. Hai ragione, di esportare. Perdonatevi. E quindi parlavamo proprio di questo, del fatto che i nostri prodotti molto spesso non si trovano da altre parti perché noi non li esportiamo, non li portiamo altrove. E voi che cosa ne pensate? Sì, buon Leonardo, io credo abbastanza fermamente che il problema sulla nostra mancata esportazione risieda proprio nel nostro, tra virgolette, volerci isolare dal resto del mondo in una maniera abbastanza semplice. In realtà tutti sanno dove sono le Marche, ma nessuno è mai stato nelle Marche. Chi è nelle Marche si innamora, visti anche i recenti articoli apparsi su riviste internazionali. Sì, vero. Perché questo? Questo perché le Marche, per come le vivo io, sono una regione stupenda, molto meno blasonata delle vicine, la regione quella senza mare, è la città delle mie, è la regione delle mille signorie, parte 2. In ogni caso, le nostre adorate Marche offrono paesaggi alquanto confrontabili, se non migliori, per alcuni frangenti, ma non vengono valorizzate. Il problema di fondo sta proprio nella valorizzazione a livello centrale. Il fatto che i fondi per il turismo spesso vengono usati per tutt'altro che la campagna pubblicitaria per promuovere le nostre zone. Questo può essere soppiantato dal nostro turismo culturale. Turismo culturale e turismo, in questo caso ancora meglio, culinario. Sì, l'enogastronomia sicuramente del nostro territorio è qualcosa che va decisamente riscoperto, e a tal proposito vi consiglio un altro podcast nato da poco che sta per far uscire, non so se quando ascolterete questa puntata sarà già uscita, ma il loro primo episodio ufficiale, ossia Livers on Loan, che parlano della situazione del vino nelle Marche, podcast molto interessante a cui sto aiutando, diciamo, come consulente per gli episodi, comunque consulente tecnico. Lo consiglio, qualcuno potrebbe pensare, lo fai perché è tuo fratello. Sì, effettivamente chi lo fa è mio fratello, però la qualità è sicuramente altissima, perché comunque si parla di persone che col vino ormai, nel senso, ci hanno fatto molta molta amicizia nella maniera meno distruttiva possibile, ma molto più da studiosi, molto più da cultori. Quindi niente, piccola parentesi marchettara. Andrea, tu che ne pensi della situazione dell'esportazione dei nostri prodotti in giro per il mondo e anche solo nel territorio italiano extra marchigiano? È molto difficile già trovarlo nelle zone limitrofe, quindi diciamo che un'esportazione maggiore non farebbe male né a noi né al resto dell'Italia, logicamente sperando che non ci tentino di rubarci le ricette ed esportarle all'estero, cosa che nessuno potrebbe mai assicurarsi che non succederebbe mai. E qui io gli lancio un domandone. Vai. Ma visto che i nostri prodotti hanno comunque microproduzioni, possiamo parlarle di microproduzioni, nel migliore dei casi comunque non superiamo mai grandissimi quantitativi anche in ciauscoli, oppure pensiamo al Varnelli, oppure pensiamo anche alla Meletti, la cosa che finisce con Setta Meletti. In ogni caso possiamo considerarle non produzioni a livello industriale, pensiamo ad esempio alla Molinari, sì, con la sua Sambuca, sì. Ma non è che la regione Marche, non valorizzando i prodotti marchigiani all'estero, invogli il turista a arrivare nelle Marche per assaggiare? Su questo non saprei risponderti io personalmente. Tu, Andrea, che ne dici? Probabilmente Cavacca. Che cosa? Leo. Dimmi. Credo che abbiamo passato l'uscita. Attenzione, abbiamo passato l'uscita. Merda, santa merda. Ci fanno tornare dietro? No, arriviamo esattamente nello stesso momento. Perfetto. Vabbè, okay. Continuiamo nel frattempo. Sì, sì. La registrazione continua. È bello della diretta anche questo, il fatto che ma puoi continuare diciamo a tenere quello, penso che continuerà a registrare anche se guardi la mappa, quindi non ti preoccupare. Ok, va benissimo. Puoi riaprire il Google Maps grande, credo. Sì, stare sicuro. Ok. Dicevo, buon Andrea. Come rispondi alla domanda di Luca? Probabilmente prima di tutto con un'altra domanda per i nostri ascoltatori. Vai. Chi di voi conosce che cos'è il Varnelli? Che quasi tutti ormai, credo. Però non è scontato. Non è scontato perché per noi lo è sicuramente, per noi, anzi nella nostra testa dovrebbe essere scontato, per gli altri però effettivamente non lo è. Ad esempio oggi sono andato a prendere un caffè e gli abbiamo chiesto se aveva il Varnelli, ci ha risposto sorridendo di no. Per una volta pensavamo che un barista fuori dalle Marche sapeva che cos'era il Varnelli, poi dopo ci ha chiesto che cos'era. Quindi ho una notizia importantissima, scusami. Vai. Per l'interruzione, ma meno una regione, Leonardo, meno una regione. Abbiamo appena finito il Lazio. Oh, siamo in Abruzzo. Sì, siamo in Abruzzo finalmente. E direi che con questa chiacchierata sicuramente ci è passato molto di più il tempo, anche se lo stiamo tenendo sotto controllo, però diciamo scorso secondo me un po' più rapidamente. Andiamo a prendere gli arrosticini. A quest'ora credo sarà difficile, Andrea, però è bello sognare, io lo so che è bello sognare comunque. A mezzanotte due stelle. Allora, tornando ai dolci racconti di ieri, a proposito di fare gli schifosi a orari improponibili, ieri per esempio abbiamo, sempre girando per la bella Salerno, comunque siamo arrivati in una delle piazze in cui i giovani si ritrovano il sabato sera, un sacco, veramente un sacco di giovani comunque. Un sacco di bella gente, di belle ragazze soprattutto. Abbiamo molto molto apprezzato la fauna femminile del luogo, che si dimostra particolarmente diciamo di ottima qualità. avrò dei guai per questo. Però vabbè. Va bene, vabbè, ti ospito io, buon Leonardo. Vabbè, così che dormirò nel furgone. C'è spazio. E a parte questo, comunque abbiamo deciso di fare gli schifosi e andare a mangiare qualcosa dopo le nostre attività, una volta comunque che ci eravamo piazzati nel nostro ostello, anche questo posto veramente carino, molto molto bello, edificio storico di cui i salernitani comunque parlano, che quando ci hanno chiesto dove alloggiavamo, comunque noi non ci ricordavamo proprio il nome, abbiamo detto un ostello qui intorno, e le signore comunque che ci hanno risposto sapevano già di che cosa stavamo parlando comunque, e hanno subito iniziato una sequela di elogi nei confronti del luogo, che se li merita assolutamente. Una volta appoggiate le cose nell'ostello, siamo andati a mangiare qualcosa e ci siamo fermati in un posto che ha fatto dei panini che, madonna mia, che bellezza. Maronnu Carmine, che spettacolo, veramente. Perché io vorrei che un attimo, Luca, tu ce li raccontassi questi panini e facessi un attimo rosicare con Andrea, che era in stanza con noi ma non si è goduto la serata. Sì, il povero Andrea purtroppo non si sentiva benissimo, lo capisco, perché passava una settimana abbastanza complicata. In ogni caso, io ho approfittato della situazione prendendo due cose soltanto, in realtà. Una frittatina di pasta, quindi la classica frittata di maccheroni in stile napoletano, quindi pasta insieme a besciamella, insieme a formaggio e piselli, tutta roba dietetica, insomma. Tutta roba alle due di notte è proprio consigliata, molto leggero, è consigliato al dietologo alle due di notte, i quali venivano impanati e poi fritti con una temperatura interna di 2 milioni di gradi, sì, c'è anche il formaggio fuso che si scioglieva piano piano, il nucleo del sole impallidisce. E poi ho approfittato dell'offerta e ho preso anche un crocchè di patate, quindi questa crocchetta abbastanza grande di patate con all'interno ancora formaggio, e anche questa impanata e fritta, naturalmente. Mentre tu, buon Leonardo, di cosa hai approfittato? Beh, io mi sono sparato un ricchissimo panino che aveva fra gli ingredienti doppia mortadella, oltre che carne di cottura media, ottima, veramente ottima, era una salsa al pistacchio, veramente allucinante per quanto era buona, insomma era tutto amalgamato, comunque cucinato con tanto tanto amore. E il problema di ieri è che mentre mangiavo stavo vedendo un sonno, ma di quelli proprio tremendi, che non mi era mai successo mentre mangiassi, che mi venisse sonno, ma proprio sonno di... Infatti appena finito il panino ho cominciato, diciamo, ad accusare pesantemente gli effetti del panino. Sì, capisco perfettamente. Buon Leonardo, secondo me ieri sera quando ci siamo mossi per andare a mangiare, sì, in realtà ti devo ancora ringraziare, perché senza di te probabilmente mi sarei perso, avrei iniziato a piangere come un vitello, perché non sarei mai riuscito a ritrovare la strada per l'ostello, assolutamente. Però in ogni caso, diciamo che noi ci siamo mossi per andare a mangiare non sì la fame, ma credo che la stanchezza. Non potevamo andare a dormire con lo stomaco vuoto, secondo me. No, anche perché diciamo che l'alimentazione un attimo c'era passa molto simile al pranzo, infatti ci siamo rimangiati praticamente gli avanzi del pranzo, perché sì, abbiamo avuto un ritmo molto molto serrato ieri, partenza la mattina come abbiamo detto, siamo arrivati verso le 2 e qualcosa, abbiamo montato il nostro accampamento, ci siamo messi a mangiare, subito dopo vestizione in abiti storici, poi combattimenti, insomma sarà una giornata molto molto intensa, molto molto interessante. E adesso stiamo finalmente tornando a casa e io direi non vedevamo l'ora, perché Gazzarola è distruttivo, seriamente. Sì, è qualcosa che non ci si crede, perché veramente non è facile, cioè fare il revocatore non è facile. No, assolutamente. Poi posso dire che... Ecco, datemi entrambi le vostre opinioni da, diciamo, neofiti, anche se tu, Luca, ormai neofita non sei. Anche il buon, Andrea non è che sia arrivato ieri, però, diciamo, siete quasi gli ultimi della compagnia. Datemi la vostra opinione. Sì, sì, Leo, guarda, su questa esperienza salernitana posso dire che sono stato piacevolmente colpito dalla quantità di persone venute a fotografarci, fare domande, fare foto insieme a noi, quantità di bambini che di solito anche abbastanza educati, se posso dire, anche abbastanza educati. Sì. Rispetto ad altre zone sono stati anche abbastanza rispettosi dei nostri oggetti, che possono essere molto pericolosi. In ogni caso posso dire che la vita dei revocatori a volte può essere molto difficile, come in questo caso, perché anche prima della vestizione, mentre stavamo montando l'accampamento, già c'era gente che chiedeva, e quindi è stata abbastanza tosta. In ogni caso posso dire che sì, la vita da revocatore è tosta. A volte è veramente tosta, perché, come dicevamo all'inizio del podcast, ogni volta sposta l'asticella sempre più in là, sposta l'asticella sempre oltre al limite, perché comprendi che sì, la tua stanchezza di tutti i giorni in realtà non è nulla, in realtà magari vivere un'esperienza in piena estate con tuniche di lana, armature, battaglie campali, assedi, sposta l'asticella sempre più in là. Esattamente. Della sopportazione fisica, il dolore fisico che puoi provare. È proprio questo quello che volevo dire, infatti, prima. Tu, Andrea, che ne pensi? Io, diciamo che ho sempre, allora, lavorando anche abbastanza, sì. Ho sempre trovato le revocazioni come momenti di vacanze. Ok. Anche se non è che stai al mare, c'è sempre da lavorare e cioè ti distrugge, perché è un lavoro abbastanza pesante, devi essere sempre in ogni momento vigile per qualunque cosa, perché hai sotto mano attrezzature che non costano poco. No, decisamente no. Ma anche per il fatto che bene o male viaggi, però stacchi la spina, quindi proprio ti dimentichi di alcuni problemi che hai, e ok, casomai te ne sorgono di nuovi, come ad esempio in questa rievocazione il fatto del furgone che è da riconsegnare domani mattina, ma che ci hanno detto, insomma, riconsegneremo stasera stessa, quindi diciamo che è un viaggio questo qui che abbiamo dovuto fare obbligatoriamente per tutta una serie di problematiche interne nostre, di cui non vi rendiamo dotti, ma il furgone è a noleggio, quindi potete ben immaginare quale sia il motivo che ci abbia spinto a fare questo viaggio particolarmente tosto, non diciamo nient'altro al riguardo. Però sì, il buon Andrea ha centrato il punto, uno dei punti quantomeno, che è lo stesso che ho provato io quando ho iniziato a fare le revocazioni storiche. Io mi ricordo vi chiedo appunto di condividere un ricordo anche voi della vostra prima revocazione. Io la mia prima revocazione degna di questo nome l'ho fatta a Monticello Brianza, wow, nel 2014 se non sbaglio, perché 2014 dovrebbe essere l'anno in cui ho iniziato effettivamente a fare rievocazioni. Io sono rievocatore, sì, da 5 anni, di conseguenza 2014. Monticello Brianza, che ha questa villa, questa tenuta bellissima del 700 se non sbaglio, potrei sbagliarmi. Ci siamo ritrovati praticamente lì sempre per rievocare i Longobardi, è voi dovete immaginare un Leo alla sua prima uscita, che per carità già un po' conoscevo il gruppo perché ero entrato in compagnia, comunque stavo già facendo allenamenti, comunque mi ero già interfacciato con il resto della truppa già da tempo, quindi conoscevo bene già le persone che avevo vicino in quel determinato ambiente, ma era tutto nuovo. Ed effettivamente è stato un weekend molto diverso dal solito, perché mi sono ritrovato effettivamente a sfoggiare abiti che non avrei mai pensato di mettere. Poi ci siamo ritrovati in una situazione in cui eravamo effettivamente esposti come opere d'arte. E non penso di esagerare quando dico questa parola, perché se tu vai a guardare la meraviglia negli occhi di chi ti viene a trovare, molto spesso non ci credi. Sembra quasi, non dico finto, ma sembra sempre quasi che tu non te lo meriti tutta questa meraviglia, tutto questo entusiasmo, anche perché quando vivi all'interno le cose naturalmente hai tutta un'altra scala di valori, nel senso che tu quando fai una cosa, soprattutto in un ambito in cui il dettaglio è importantissimo come quello della rievocazione storica, ti dà fastidio magari vedere che una cosa non è perfettamente al suo posto come dovrebbe essere, che non rispetta magari i canoni di filologicità minimi, però che la gente comunque è contenta, è felice di essere venuta ad assisterti, e lì diventi veramente opera d'arte per qualcuno. Monticello, durante la notte che eravamo arrivati, fantastico, ci siamo messi a giocare praticamente a nascondino dentro questa tenuta, dentro questa casa. Io me la ricorderò per sempre perché era sconfinata, era una casa, non finiva più, era completamente al buio. Avevamo a testa le squadre, avevamo iniziato a fare questa sorta di gioco in cui dovevamo trovarci a vicenda, e potevamo farlo perché questa casa era talmente gigantesca, talmente enorme, che ovunque andassimo c'era il rischio di perdersi. C'erano scalinate, c'erano porte che appunto ti portavano a stanze che non capivi dove fossi. Insomma, è stata una notte veramente veramente divertente, e le prime rievocazioni io me le ricordo veramente con questo spirito, con lo spirito veramente della spensieratezza più totale, niente di più, niente di meno. Sì, guarda, io ho iniziato, più o meno per quando registriamo questo podcast, è un brutto anniversario per la mia vita, visto che sono 3 anni dal terremoto. Ieri erano 3 anni esatti dal terremoto. Già. Il terremoto che mi ha costretto a allontanarmi da Camerino, città dove studio, e tornare nella mia città natale. Ed è proprio nella mia città natale che ho reincontrato un amico di lunga data che poi è diventato il mio maestro di schermo. Cioè, Diego, che salutiamo naturalmente attraverso questo podcast. E diciamo che iniziando a novembre, ho iniziato i primi di novembre, e poi dopo poco tempo, infatti era il 17 marzo, me lo ricordo benissimo perché era il giorno di San Patrizio, la mia prima rievocazione è stata fatta a Campofilone, alla festa di San Patrizio di Campofilone, la stessa organizzata dagli stessi organizzatori del Monte Lago Celtic Fest. Molto bella quella di Campofilone, esperienza che vi consiglio pienamente, perché mi è sempre piaciuta la cura, piccola realtà ma molto molto curata, insomma. Sì, condivido pienamente questa opinione, e inoltre con Leonardo condivido anche l'opinione riguardante proprio l'esperienza della rievocazione stessa. Infatti a Campofilone, non combattendo ancora, ho vissuto la prima rievocazione in una maniera completamente spensierata, con gente che conoscevo relativamente non da troppo tempo, erano circa 6 mesi, ma nonostante ciò capisci che le persone che ti circondano nella nostra compagnia cambiano completamente modo di fare, espressione, e soprattutto carattere quando si trovano in rievocazione. Tutti diventano molto più tranquilli. Io non so se è una sensazione soltanto mia o è generale, nonostante lo stress derivante da milioni di imprevisti e problemi che possono avvenire in rievocazione, nonostante ciò, come diceva prima Andrea, io mi sento tra virgolette in vacanza, mi sento tra virgolette in un luogo che io sento quasi mio ormai. Dopo 3 anni sento ormai mio, un luogo in cui veramente io mi diverto. Come dico spesso, come rispondo spesso alla domanda ma voi vi divertite a fare a botte? Hai usato un accento del nord, sì. La massaia di Boghera che di solito viene a trovarci, effettivamente ci fa questa domanda molto spesso. Sì, io ricordo questa domanda fatta più e più volte in Trentino, io quell'esperienza in Trentino ancora mi ha segnato completamente, ma nonostante ciò ti posso dire che qualsiasi sia il dialetto in cui è stato chiesto, sì, io mi diverto, io mi sento in vacanza nonostante mi devo picchiare con altri. È modo strano di stare in vacanza, però posso dire che non è affatto male. Diciamo che principalmente sei te che picchi gli altri. Spaccare il capello in quattro, dai, su. Per gli ascoltatori del podcast, questo non era una notizia ufficiale, non doveva essere una notizia ufficiale. Le prendo anch'io, giustamente le prendo tante anch'io. Da pochi! Non abbastanza, sicuramente. Andrea, dici la tua esperienza, è meglio. Allora, la prima rievocazione. La prima rievocazione penso sia stata all'equinozio d'autunno a Corridonia, al festival dell'equinozio d'autunno, non combattendo ho sorvegliato il mini accampamento che avevamo e devo ammettere che proprio un senso di spensieratezza tra principalmente quasi tutti, ma dopo è logico qualcuno che ha problemi familiari o qualunque altro problema lo affligga, può sempre accadere che qualcuno stia giù di morale o arrabbiato, sono problemi quotidiani e stati d'animo che chiunque sì. Passano e logicamente non te li puoi dimenticare, non li puoi dimenticare tutto un tratto, però per altri problemi, diciamo per i problemi della vita quotidiana, quali sì, per i vari problemi della vita quotidiana quasi che li elimini per quei 2-3 giorni che sei fuori e nemmeno ci pensi, proprio non pensi a nulla. Mentre invece la prima rievocazione che ho fatto come combattente è stata a una rievocazione a una cena medievale, era a San Claudio. A San Claudio, e dopo svariate prove del combattimento mi sono comunque beccato una squadra in faccia. Succede, dai, buon Andrea, non facciamo impaurire i nostri ascoltatori. E invece no, i nostri ascoltatori devono impaurirsi. È giusto che sappiano. È giusto che sappiano che comunque la vita del revocatore non è solo bagordi e divertimento, ma soprattutto per quanto riguarda la nostra specializzazione, ossia quella militare, perché non è scontato che un revocatore sappia utilizzare una spada. Ma è proprio questo, il fatto che noi comunque ci prendiamo dei rischi, e sia diciamo per quelli derivati dalla strada, quindi dobbiamo stare molto attenti quando arriviamo nei posti che di solito sono molto molto lontani rispetto a noi, ma proprio quelli intrinseci della revocazione stessa, quindi tutti i colpi che noi possiamo dare e ricevere devono in qualche modo provenire, però devono avere un background bello consolidato di allenamento e di fiducia nei confronti degli uni degli altri, insomma. E sì, sicuramente è importante questo aspetto, questo del portarsi appresso le proprie emozioni comunque da casa, perché purtroppo noi non siamo degli automi, non possiamo semplicemente spegnere il mondo che ci lasciamo dietro, perché prima o poi comunque ci ritorneremo, non è qualcosa per cui possiamo effettivamente dimenticarci. Leonardo? Io sto sbadigliando nel frattempo, ma chiedo al buon Luca informazioni sul nostro percorso. Sì, buon Leonardo, allora, buonissime notizie. Siamo in rotta di collisione. Matteo! No, scherzate. Qualcosa di commestibile, dai! Dillo! Siamo quasi per arrivare ad Avezzano! Sì. Quindi possiamo rientrare, ecco, infatti sono riapparsi, possiamo rientrare nelle categorie autostradali per procedere in maniera molto più veloce. Ci troviamo esattamente a 9 km da Avezzano. Bellissimo, perché in questo momento mancano esattamente 210 km alla nostra destinazione. Solo 210 km. Totale ne erano 300. In 2 ore e 10. Ah, ma dai! Molto, molto interessante questa cosa. Molto, sì, molto. E dai, in ogni caso è... L'idea di questo podcast credo che possa dirsi molto funzionale, perché almeno da circa una quarantina di minuti, da quasi un'ora ormai. Da quasi un'ora ormai che blateriamo, ma è giusto, perché effettivamente un podcast live come questo, cioè noi non stiamo facendo un live, però per noi lo è, perché comunque non ci siamo preparati niente, non c'è copione in questa cosa. Sono solo persone in una macchina che cercano di tirarsi su a vicenda, raccontandosi un po' i propri cazzi, i propri mazzi, e raccontarli soprattutto ad un pubblico che è disposto ad ascoltarlo. Probabilmente sarà più funzionale, come tutte le cose, sarà più funzionale per noi che lo abbiamo fatto che per voi che potreste essere interessati alle nostre chiacchiere. Però se avete apprezzato comunque le mie chiacchiere mattutine e volete, diciamo, sentirmi in una veste ancora più spontanea, ancora più diciamo così, ancora più cruda, va bene, senza la cottura, senza troppo allora magari questo potrebbe essere una soluzione una volta ogni tanto per voi, per così, per scoprire meglio qualcosa di nuovo, non solo su chi vi sta parlando, ma su cosa quelle persone che vi stanno parlando possono dirvi, insomma. Non offro una scadenza, diciamo così, regolare per queste puntate, ma per ora non ci interessa questa cosa, semplicemente sarà una soluzione magari anche per le prossime volte in cui dovremo andare magari in posti. È una cadenza più o meno rievocazione, rievocazionale, probabilmente, sì. E che dire, signori, io francamente, ripeto, non ci siamo preparati in niente, ma voi volete aggiungere qualche topic, così il viaggio è ancora lungo, non penso che copriremo tutte le 3 ore che ci separano. No, anche perché è di difficile fruizione per i nostri ascoltatori. Decisamente, però se volete aggiungere qualcosa per continuare questa nostra chiacchierata, diciamo... Sì, Leonardo, tu parlavi della tua prima esperienza, io ho parlato un po' anche delle mie, in cui purtroppo tu non c'eri con l'entrettino, mi dispiace dirtelo. Purtroppo non ho potuto partecipare sempre a tutte le vocazioni. Questo... Va bene, per impegni molto molto importanti. E in ogni caso, qual è stata oggettivamente la rievocazione in cui da 5 anni a questa parte, a quest'oggi, ti è piaciuto? Dunque, ora non voglio sicuramente fare quello che dice no, mi sono piaciute tutte uguali, perché no, non è vero, ci sono state sicuramente le rievocazioni, sono riuscite un po' di più dal punto di vista, diciamo, di mero divertimento, ma anche proprio di soddisfazioni personali, però una su tutte sicuramente spicca, perché a questa rievocazione ho legato molto di più il, aspetti quali l'avventura, la scoperta, il qualsiasi cosa che secondo me è bello che si possa trovare in una rievocazione storica. E, ed è la rievocazione che facevo, che facemmo, sì, in Ungheria, wow, qualche anno fa, bellissimo, nella località di Zamardi sul lago Balaton. Allora, Zamardi è una piccola città, non è grandissima, non ha niente di così eccezionale in realtà, non è assolutamente un'esperienza turistica importante, devo dire, però ha la sua dignità, ma soprattutto ha questo lago bellissimo, questo parco veramente bello, il no, Telepass Leo. Sì, puoi anche parlare, cioè non puoi anche non fare gesti, cioè se parli non succede niente di male, quindi tranquillo. Dicevo, Zamardi non ha niente di così eccezionale da vedere turisticamente parlando, ma è interessante. Ops, ho fatto un piccolo errore, signori. Anche qua legge il Telepass. Scusate se c'è un piccolo vuoto, se lo legge qui ci proviamo qua. Purtroppo si vede poco notte, c'è poca illuminazione, ma soprattutto deve essere leggermente indicato meglio, se posso essere. Un pochettino, sì, c'è questa curva molto stretta per prendere il Telepass, ma ci siamo riusciti, ok. Perfetto. E siamo ufficialmente in autostrada. Ok, Leonardo a sinistra. Ora? Sì. Seguendo il grosso camion, no? Il grosso camion va a destra, ma anche il grosso camion un attimo stava per sbagliare, quindi ciao eroe. Dunque, stiamo per immetterci verso Roma, poi devieremo per L'Aquila. Per L'Aquila, esatto. Dicevo, all'esperienza che facemmo a Zamardi, non solo c'erano grandi amici, molto uniti comunque, ma ci siamo veramente veramente divertiti tantissimo. L'esperienza è stata bella perché ha coinvolto rievocatori di mezza Europa praticamente. C'erano polacchi, ungheresi, italiani naturalmente, di più gruppi, austriaci, e c'era un po' di tutto davvero, e non potevamo proprio che proprio lamentarci, perché abbiamo combattuto, abbiamo mangiato, abbiamo bevuto tantissimo. Io, per dirvi, non mi vergogno di raccontarvi la mia esperienza alcolica del venerdì, quando appena siamo arrivati. Tra l'altro la ricordo con molto piacere, anche perché è stato un viaggio di 10 ore di macchina che sono volate in un batter d'occhio. Non me ne so, cioè, a differenza di questo viaggio, sono rimasto sveglio per 10 ore dentro quella macchina. Io, la macchina per me ha un effetto soporifero incredibile, però un viaggio di 10 ore verso l'Ungheria per me è stato è passato come se non fosse niente. Sicuramente per la compagnia che mi ha tenuto sveglio, quindi diciamo è stata un'ottima compagnia, ma si vedeva che quello sarebbe stato un viaggio fortunato, e lo è stato. Ci siamo tanto divertiti, è stata un'esperienza bella. Abbiamo guidato, abbiamo remato con una barca su questo meraviglioso lago cristallino, il lago Balaton. Abbiamo giocato con i bambini, visitato un pochettino questa cittadina, facendo amicizia anche con l'unico bar che c'era lì nella zona, un baretto che praticamente non aveva niente da offrire, però quel poco c'è passato. Era stato offerto il Barnelli in quel frangente. Mi pare di ricordare che ne abbiamo parlato comunque della mia esperienza alcolica, cioè mi pare che l'avessimo portato, però non sono sicuro. Però la mia esperienza alcolica è stata bella, perché arrivati stanchi comunque, nonostante il viaggio di 10 ore, sì, ho detto è passato come se non fosse niente, però il viaggio di 10 ore si sente. Siamo arrivati e abbiamo iniziato a bere subito, appena, mentre allestivamo comunque l'accampamento. Sono arrivato a un certo punto di venerdì sera, che ero talmente stremato, sono voluto andare a dormire quasi subito, devo dire, E è stato bello perché mi sono messo sulla brandina della tenda. Qualcuno a un certo punto è venuto a chiedermi come stessi, perché sicuramente avevo mostrato grossi, diciamo così, avvisaglie di alcolismo latente. E mi hanno chiesto: Leo, tutto bene? Appena ho sentito Leo, tutto bene, mi sono girato sul fianco, ho vomitato tutto quello che avevo da vomitare in un colpo solo, una cosa pulita proprio, che non mi ha lasciato neanche bruciore di stomaco, proprio è stato super pulito. Mi sono girato, tutto bene, e poi mi sono rimesso a dormire. Che bello, è stata una cosa bellissima, di una pulizia incredibile. Non ho neanche sporcato la tenda da dentro mentre vomitavo, anzi è stato tutto molto circoscritto ad una piccola macchietta nel terreno che penso abbia sciolto la terra e abbia creato un buco fino al centro della terra. E per il resto Zamardi me la ricorderò per sempre. Spero che in futuro si possa tornare a visitare un posto del genere, ma soprattutto avere la compagnia di così tante compagnie straniere, perché effettivamente le compagnie di rievocazione straniera possono raccontarti tante cose, non solo vicine a te, perché comunque l'esperienza del rievocatore molto spesso è fatta di dettagli, di racconti che si assomigliano un po' a tutti, ma ti può raccontare come lavorano gli altri, insomma, che non è mai uguale al tuo modo di lavorare. E te lo racconta anche con una lingua diversa, quindi cercando anche di metterci anche questo aspetto della comunicazione, cioè il modo in cui una persona sa, attraverso la propria lingua, enfatizzare o minimizzare la propria emozione, ecco. E avere a disposizione tanta gente che ha la tua stessa passione, che parla lingue diverse, è sicuramente una di quelle esperienze meravigliose che mi auguro in futuro di poter rifare. E quindi di tornare anche all'estero grazie a questa opportunità. Sì, posso immaginare benissimo la situazione di Leonardo, perché posso immaginare quello che può essere, ad esempio, condividere questa esperienza con gruppi di rievocazione, uno con cui non lavori mai, quindi conoscere nuovi gruppi di rievocazione. Io, va bene, come dicevo prima, non è che percorro questa strada di rievocazione da millenni, ma posso dire che ogni volta che conosco un nuovo gruppo posso conoscere veramente nuove persone, nuovi modi di ragionare, nuovi modi di combattere, per esempio nel nostro caso nuovi modi di combattere, nuovi modi di intendere qualsiasi situazione. E quindi è assolutamente sempre un'esperienza formativa. E a questo punto io ti rigirei la tua stessa domanda: qual è stata la mia esperienza più bella? Se posso essere sincero, io sono molto legato a due esperienze. Quello che dicevo che è essere la mia prima esperienza di rievocazione, che io sento ancora vivissima, perché è proprio in quel frangente che ho capito che il mondo della rievocazione mi potesse interessare veramente, certo, perché nel quel frangente di Campofilone, che comunque è un paesino, per gli ascoltatori è un paesino abbastanza vicino al nostro posto, e comunque sentirsi a casa e sentire il calore della propria terra natia può aiutare nettamente. E quindi il fattore spensieratezza, la serata alcolica, che anche in quel caso è stata forse è proprio le serate, quando senti la prima serata alcolica, la prima uscita di compagnia, di solito. Secondo me le serate alcoliche le senti prima di viverle, cioè sì, senti nell'aria, cioè senti. Già ne sei consapevole di come andrà a finire, però è una consapevolezza inconscia, secondo me, cioè si parte con il mondo, insomma, del fatto che tornerai a casa coi gomiti, Sì. Quindi, come dicevo, è esperienza bellissima, perché nel mio caso ricordo tutta la compagnia andare nell'unico baretto del paese, divertirsi lì, divertirsi ancora in abiti storici e mezzo a tutti quante le persone vestite in maniera normale, e nonostante fosse passato il tempo gente che facesse domande anche quando stavo sorseggiando qualcosa di alcol, cioè qualche alcol vario, e domande del tipo ma perché vai vestito così, ma chi te lo fa fare, ma chi te lo fa fare, ma guarda che te sporchi qua. E vabbè, di quella serata alcolica io ricordo, per i nostri ascoltatori c'è un fattore determinante nelle revocazioni che è un problema comune per qualsiasi parte del mondo, chiamato le scarpe storiche. Le scarpe storiche sono la fonte del male, cioè... Va bene, allora ti interrompo un attimo perché sulle scarpe storiche ci voglio tornare più tardi, però vorrei che anche Andrea adesso ci raccontasse la sua esperienza. Però non so se tu avevi ancora un pezzo di storia da raccontarci, Luca. Sì, raccontavo la mia esperienza alcolica. Ricordo soltanto che queste scarpe storiche, che sono completamente lisce, scusami il leggerissimo spoiler, ricordo delle scarpe, delle scale di marmo. Nel frattempo dobbiamo girare, mi confermo? Sì, fra un chilometro e 100, fra un chilometro, qui è Teramori. Buon Leo può leggere benissimo la scritta Teramo, e Teramo è un paese confinante col nostro, più o meno. Si sente già un po' l'odore di casa. Cioè... è forte, è forte. È forte che sale Montepulciano. Ma siete già una nota di ciauscolo in lontananza, eh? Esattamente. E ricordo che semplicemente non so se per il tenore alcolico, se non so se. Per le scarpe, per le scale di marmo umide, ma ricordo che feci un piccolo incidente e atterrai di costole piene su, su quelle scale di marmo. Ci racconti cose dolorose, caro Luca. Però ricordo che mi tirai su immediatamente col... Non è successo nulla, non vi preoccupate, tutto ok. Perché il buon Luca sotto alcol aveva paura di aver rotto la scala. E quindi l'ultima domanda, la tua migliore esperienza? Allora, questo è il mio secondo anno come rievocatore e ce ne sono molte valide, ma non so se mi contraddirete per ciò che dirò adesso, ma secondo me la migliore che ho fatto effettivamente è stata quella del Monte Taburno, la battaglia al Monte Taburno dell'anno scorso. Io purtroppo non c'ero, però il buon Leonardo c'era. Abbiamo patito la fame perché trovarsi su un alto piano senza né supermercati né punti di approvvigionamento per il cibo intorno era abbastanza complesso e il cibo era limitato, però in compenso ho capito che le vere amicizie fatte tra gli evocatori sono qualcosa che rimarranno per sempre, perché gente con cibo limitato che condivide tutto. Speravamo che arrivasse un cinghiale, ma alcuni di noi li hanno scacciati durante la notte. Mamma mia. Sì, hanno scacciato i cinghiali. Contestualizziamo un attimo il Monte Taburno, perché è un'esperienza anche quella che non è per niente comune. Noi poco tempo prima eravamo stati a Benevento per la manifestazione Benevento Longobarda, molto molto carina, e poco tempo dopo infatti diciamo i beneventani hanno voluto replicare assieme a noi sul Monte Taburno, in cui abbiamo avuto anche la presenza dei nostri vicini bizantini, con cui abbiamo avuto lo scontro proprio su questo monte, e il bello anche di fare revocazioni longobardo, che longobardo è che la maggior parte delle volte che devi simulare una battaglia vinci. non c'è popolo, a meno che non scendano direttamente i franchi a revocare passi decisamente meno graditi a noi. Molto più nefasti. Molto più nefasti, esatto. Però Monte Taburno è veramente, come ha detto il buon Andrea, è un altopiano in cui non c'è grandissima possibilità di reperire beni di consumo utili alla sopravvivenza a meno che non vuoi vedertela con delle mucche che abbiamo incontrato l'ultimo giorno prima della battaglia, che diciamo noi eravamo in mezzo al bosco per cercare una caserma e a parte il fatto che ci siamo trovati dall'altra parte del monte e ci siamo fatti più di 6 km a piedi in mezz'ora, cosa impossibile, ma ce l'abbiamo fatta. Madonna. E a parte che chi è che guidava il furgone quel giorno lo devo ancora ringraziare. Ero io, certo. Io sono sempre il driver del furgone perché sono il cazzo di culo della nostra compagnia. È il mio amico Tank. Dopo 6 km di corsa per un ritardo tremendo, tagliando per in mezzo il bosco, sentiamo il rumore di un motore di un furgone e ci buttiamo sulla strada. Tanto possiamo riscontrare il sorpasso della Start, esatto, Ascoli Piceno Marche Italy, una corriera delle nostre parti, corriera della Start che fa la spola esattamente tra Roma e le nostre zone. Ciao campioni anche a voi. E sì, Andrea comunque ha riassunto abbastanza bene l'esperienza del Taburno. Io posso solo aggiungere che la natura è veramente veramente mozzafiato. Sotto Taburno potete trovare uno spiazzo che anche arrivarci a piedi secondo me è una bella passeggiata che potete fare con tutta la famiglia, per poi conquistarvi lo spazio comunque che in una natura assolutamente incontaminata, molto molto bella e ricca soprattutto. Un attimo distratto dalla presenza di questi iconetti meravigliosi. E sottolineiamo una cosa, è vietato accamparsi per la notte. Sì, a noi è stato concesso naturalmente per le attività di rievocazione storica, ma si tratta appunto di un'occasione speciale, però di default esattamente non, come praticamente su tutte le montagne, non è possibile sempre accamparsi. Se non avvertendo penso la sopra la forestale, ora non ho idea di come sia di come si possa ottenere effettivamente un permesso per campeggiare in montagna, ma sì, bisogna parlare col CAI e col CAI, esatto, perché magari ci sono delle zone che possono essere o in un parco nazionale che tende a salvaguardare magari delle specie in via di estinzione. Dalle nostre parti abbiamo un esempio lampante piuttosto famoso, ossia il chirocefalo dei Monti Sibillini, che praticamente nel mondo prolifera solamente in due zone. Una di queste è il lago di Pilato. Esattamente, e l'altra è in Giappone. E l'altra è in Giappone, esatto. Italia e Giappone, che sono due nazioni così distanti, così diverse almeno sulla carta, ma che invece condividono tantissime cose culturalmente parlando, seppur diciamo così la maschera con cui la mostrano è piuttosto diversa. Però il chirocefalo, esatto, che è questa sorta di plankton, di gamberetto a vederlo, che prolifica in uno dei laghi, che i laghi stabili delle nostre montagne, il lago di Pilato, che durante la primavera appunto si gonfia per l'effetto del disgelo e si ritira naturalmente quando iniziano i primi freddi. che dire, abbiamo detto un sacco, veramente un sacco di cose. Mancano non so quante ore di viaggio. Un'ora e 52 minuti. Un'ora e 52 minuti, credo che ci siamo svegliati abbastanza bene. Sì, assolutamente. Direi che, direi che il podcast ha funzionato per questa serata. Visto che Andrea è quello che ha parlato di meno della nostra combrico, del nostro trio, se vuole concludere lui dicendo qualcosa di questa esperienza da podcaster, che secondo me non se l'aspettava, ma forse neanche Luca se l'aspettava. No, assolutamente no. Anzi, datemi entrambe la vostra opinione in merito. Comincia tu, Andrea. Che ne pensi di questa esperienza che abbiamo appena fatto? Che diciamo l'abbiamo iniziata cogliendoti addormentato su te stesso, ma poi hai subito partecipato alla cosa a modo tuo. Devo ammettere che sì, tutto molto inaspettato, come lo svincolo adesso dell'autostrada. Esatto, assolutamente, siamo svincolo Aquila Teramo che ci fa fare cose meravigliose. E... ok, svolta leggermente a sinistra. Che svincolo molto particolare. Cioè, hanno fatto un mega incrocio particolare per saltare un pezzo di ponte, e questo mi fa pensare. Però se finché c'è il controllo vuol dire attenzione, che... al ponte Aquila Teramo. Esatto, questo tratto di autostrada potreste avere un piccolo rallentamento, quindi fate attenzione se soprattutto come noi la state attraversando di notte. Ma noi appunto ci siamo tenuti svegli anche per essere pronti per ogni evenienza e non avere nessun... e comunicare a voi qualsiasi evenienza e qualsiasi imprevisto presente. Ma meglio dell'onda verde siamo, porca troia. Onda longobarda. Longo verde. Dicevi, Andrea? Sì, molto inaspettata, visto il fatto che mi sono svegliato da un pisolino, penso durato un quarto d'ora. Era qualcosina di più. Qualcosina di più. Durato un pochettino di più. Diciamo un'oretta. No. No. Sì, te lo posso assicurare, te lo guardavo e ti posso assicurare che quando uno dei tre dorme, gli altri due cominciano a risentire. È per questo che bisogna tirarsi su a vicenda, signori. Esatto. Non siate passivi quando fate viaggi in macchina, perché e non dormite. E non dormite mentre guidate. Come bene. Sì, dice. Beh, mi sono svegliato e nel momento preciso che mi sono svegliato voi avete detto si sta addormentando. No, ti stai addormentando, qualcosa del genere. E mi pare di ricordare niente del genere. All'inizio non capivo effettivamente se era per me, era all'incirca sul 18° minuto, ma era sembrato entrare, se fosse per me o per gli ascoltatori. Allora, mi pare di ricordare che stessimo parlando del fatto che stavamo spiegando l'idea di come ci è venuta in mente, ma perché tu già eri partito per il mondo dei sogni con Luca. Si stava, come diremmo noi dalle nostre parti, nazzica la testa. Nel senso, facendola dondolare in svariate direzioni mentre lui cercava disperatamente di rimanere sveglio per darmi un forte. Grazie Luca del tuo immenso sforzo. Sì, però sì, era questo il fatto, caro Andrea. Sì, sembravo quei pupazzetti che si lasciano dietro la macchina con la molla che oscillano qualsivoglia buca. Mi fanno tanto ridere. E quindi questa esperienza podcaster improvvisata, che te ne passa? Assolutamente improvvisata, ma assolutamente molto positiva. Posso dire che aspetterò la prossima rivocazione per risalire nel nostro furgone e rivivere con questa esperienza. Vedremo, magari ci saranno tante occasioni. Andrea, finisci con la tua opinione, ti prego, perché ci siamo fermati al fatto che ti eri addormentato. È stata molto positiva e come stava dicendo adesso Luca, non vedo l'ora della prossima volta che faremo un podcast. Nel Bene. Frattempo continua a dispensare cibo. Qualcuno vuole un pezzo di barretta al cioccolato? Allora, mentre, mentre il buon servitore di pettovaglie comunque ci sta giustamente facendo diventare dei ciccioni schifosi, ma è giusto così. Io, che dire, sono abbastanza soddisfatto di questa puntata zero, di questa cosa che cercherò un nome adatto per naturalmente per dargli un'identità. Longobardi in viaggio. Non lo so, dipende, dipende, perché non penso che non penso che farò questa cosa solamente per i viaggi delle revocazioni, probabilmente terrò questa rubrica, forse anche per le mie esperienze personali in viaggio, perché ci sono magari delle volte che devo guidare, sono da solo e non ho voglia di ascoltare cose degli altri, ma magari ho delle cose in testa che mi piacerebbe semplicemente buttarle dentro al registratore e buttarle senza troppi tagli nel feed, per riempire quel vuoto occasionale che c'è fra una puntata dei miei podcast e l'altra. Però, che dire, grazie di aver partecipato, ragazzi. Io non mi aspettavo una risposta così positiva da parte vostra, invece siete stati decisamente delle spalle assolutamente indispensabili, altrimenti sarebbe stata una noia mortale. Almeno avete portato un po' più di entusiasmo alla cosa, e soprattutto grazie avermi tenuto sveglio, perché altrimenti non ce l'avrei fatta. E quindi niente, signori, questo è anche un esperimento scientifico, devo dire, e ve lo consiglio. Se avete persone in viaggio, registrate le vostre esperienze, anche non per pubblicarle. Voglio dire, viviamo in un'epoca in cui pubblicare le cose sembra fondamentale, ma il ricordo, secondo me, che passa anche attraverso la registrazione di audio o di video, è un ricordo che potete anche tenere solamente per voi, giusto per gradire, ecco. E quindi niente, non mi stancherò mai di dire che il podcast è sempre uno strumento eccezionale e moderno per raccontare la vita in tutte le sue interezze, tutta la sua interezza, perché uso il plurale a cazzo di cane, perché sono stupido. E niente, volete fare una chiusa invece? Basta. Direi basta. Allora, un salutone. Ciao a tutti, grazie, buoni ascoltatori. E alla prossima, amici ascoltatori. Ciao. Let's go! Let's go! Da Media World sono arrivati i Club Days. Entra nei club e scopri le offerte dedicate. Ad esempio, fino al 30 settembre, solo per te, TV Hisense 4K 55 pollici, tua a soli 379 euro. Approfittane in negozi online. Media World, let's go!